questa vita combattiamo, siamo tutti eroi. Mo questi parlano come se t'avessero amato, come avessero passato tutto quello che hai passato. È lunedì 24, il nono giorno, chiuso nella stanza che aspetto il tuo ritorno. I giorni, le ore passano, ci credi ma non dormo. Le lacrime son sangue, non sono io che le trasformo. E trasporto cicatrici e colleziono grida esteriche. Non voglio più gli amici, nemmeno le cure mediche. E sti graffi sono i segni del passato sul mio polso, da un passato pronto a un presente al pronto soccorso. E son corso finalmente dove il cuore mi portava. Mi son perso sul cammino, ora non trovo la mia strada. Ho una spada conficcata dentro il cuore a passi lenti. Uso le parole per dirti i miei sentimenti. E vorrei che mi chiedessi se ti sto dicendo il vero. Non provo nemmeno quelli, ora ad essere sincero. È da un po' che il cielo è cupo, non lo vedo più sereno. E mentre canto questo pezzo passa un altro giorno nero. Un altro testo che scrivo, ma il disco non l'ho ancora inciso. Perché l'inchiostro è intriso delle lacrime del mio viso. E ora che è inverno dentro un inferno e non cerco il paradiso. Ma ora che ci penso basterebbe un tuo sorriso. Addio. In fondo a queste scatole e dopo queste lacrime ho trovato in un angoletto strappate alcune pagine. Sopra l'intestazione una dedica col tuo nome. L'odio è disperazione, collasso a terra esanime. Amore, scusa tanto se non mi vedi già da un po'. E sai che non lo so se poi un giorno tornerò. Ti dico che questa sera a casa non ci sarò. Dovunque io sia adesso ti giuro che ti amerò. Però non ti scordare, la cena è da riscaldare. Quando poi tu sarai pronta allora ti potrò spiegare. Sta storia è la nostra storia, la tua voglia di rappare. I tuoi fan, i tuoi istanti hanno fatto dimenticare quello che chiamavi il tuo amore universale. Amore, scusa tanto, io non te lo so spiegare. Ma a quel punto tutto a un tratto ho visto ogni sogno infranto. Ho preso una penna anch'io ed anch'io ti ho scritto tanto. Volevo trovare un punto di contatto. Intanto più scrivevo e più non sentivo il tatto. E adesso che ci penso mentre scrivi il terzo testo, come sta la tua ragazza? Astro, te lo sei mai chiesto? Ma penso di no, perché alla fine c'eri per me. Solamente quando non ti dedicavi al rap pensavi a mille parole per la nuova strumentale. Ma non ne basteranno il doppio per farti perdonare. E mentre scrivo sto piangendo, mentre dentro sto morendo. Io sto male, questo è un incubo, spero sia un altro sogno orrendo. Purtroppo tutto è reale, allora per quanto vale. Sono la stanza 17 di quell'ospedale, costruito per i pianti su una tomba di diamanti. Ma tu non dimenticarti prima che sia troppo tardi. Quando vieni porta quella foto di noi due insieme. Eravamo perfetti, tutti dovevano vederci. Amore, io ti ho amato ma tu mi hai voluto bene. Però concedimi un ultimo bacio di arrivederci. Con sta frase si conclude l'inizio della mia fine. Lascio il foglio, il microfono e tutte le mie rime. Quadernino, la matita, la mia traccia preferita. I miei scheletri nell'armadio, è ora di farla finita. Apro il cassetto di getto, prendo il ferro e lo scaravento, 23 pallottole e firmo la mia condanna.